ce la fai e perché non ce la devi fare. Il mio problema è farlo passare premuto di modo che si mangi un po' di frettatura. E perché non deve funzionare? Dovrebbe andare. Se è nuovo, se ce l'hai nuovo, almeno che si è consumata la pietra. Non è pietra, no, non è a pietra questo c'ha, io scusi, un ferro c'ha, e tu glielo devi passare in mezzo. Quello lì c'ha, che mi, non è pietra, però funge da pietra. Poi ce n'era un altro, lo stesso, che c'era una colla che era micidiale, che si incollava il ferro, tagliava le viti di ferro, la tagliava, poi la incollava, pigliava, guidava, poi la provi lì con tutta la forza che ha rotta, ma cazzo, ci ho provato, non ci sono riuscito. Americana è questa cosa, una colla americana, dice che non si trova in vendita, che viene da fuori. Se tu metti un piccolo costava 15 euro, ma è una cosa micidiale, dice, vai a attaccarsi alle dita perché questa qui non ce la fate più a staccarla, dovete mettere i guanti per me. Era micidiale, ha incollato delle cose, guarda, che tu pensi, vabbè, chi c'è ferro, non ve la vado a incollare, no? Metteva una goccia, via, una goccia, attaccava e non si staccava più. Sì, fanno tutte queste cose, a San Gabino alla festa ci sono questi ciceroni, questi che presentano anche questi che tagliano la verdura, passa pomodori, tutte queste cose qua. Io capisco. Ma adesso vediamo se ci riesco a filare. Ricordiamo un amico. E se no, guarda, in Piazza Tola c'è quello che ha fine Costelli, la Rottino, e ci vai lì e ti va a filare. Anche io quella volta arrivi a Piazza Tola, no? Vabbè, hai ragione anche tu. Vabbè, la macchina la metti via Umberto, scendi da cosa, da via Carmelo e si va. No, era troppo lontano, vado un abbraccio. Ora mi sa che poi più sotto non si può più entrare in macchina, E che ne so, cambia più passare. Il loro impegno di volo. E io una volta ero con un'amica, di notte, siamo passati che se c'era la telecamera, c'era zona ZTL, ma non mi arrivi dalla multa, c'era scritto divieto solo per abitanti. E praticamente non me ne è arrivata mai in multa. E io vuol dire fino sono riuscito a pigliare a Darga. C'era scritto consentito solo agli abitanti della zona. E io non ero abitante, però l'ho visto all'ultimo momento, cazzo, quindi non ce l'ho fatta. Sì, infatti. Ma Luca sei in abissato, non rispondi più. Sarà uscito con Dea. Io ho fatto tal peso perché era a mal di pancia dovesse, poveraccio. Io stesso poco fa è uscito per la pipì. La casa Fabrizio Pizzi mandato, vai. Ma lo deixa la giura, è preso se tu lo lasci solo, sta prima rigirato per vedere se sei sotto dietro lui, capito? E anche lui fa così, quando lo facevo andare senza guinzaglio, se io tardavo, lui si fermava finché non arrivavo io. Mi parte quella anche per... sono dirigente, ma giù, gli ho detto, bello, che cosa c'è, vuoi scendere giù? Tu devi vedere come ha fatto con la testa, ha girato la testa e ha fatto, e ha arricciato la pelle della testa, per farmi capire che voleva scendere, a te rimane. Ehi, io lo vedo, sono intelligente, gli va, non li comprendi. Vedi che Lucani non comprendia nulla, Virilla e vanno in intelligenza. Mi manca solo la barata, no, è intelligenti sono, anche quelli, diciamo, quelli di strada, sono intelligenti anche quelli. I cani sono intelligenti, c'è poco da fare, ma non solo i cani, anche i maiali, anche le galline. Io ho visto cose che fanno le galline e anche i maiali. Adesso per dire c'è la moda di allevarsi il maiale in casa, ma un cazzo di la musica rubata una sacchetta. No, sono come un cucciolo, vedi, quei maiali piccoli, che rimangono piccoli, sono piccoli tui. E se li allevano in casa e lo trattano come un cucciolo, vedi, qua lui viene, capito, li dà da mangiare, sono puliti, perché dice che il maiale non è sporco, è perché lo lascia lo sporco, sullo sporco, perché se no il maiale è un animale pulito, se tu lo lavi è pulito, non è che sia sporco come animale. Ehi, già lo so, essiccando la via Angelo, mi avrà detto, l'abbiamo fatto il cosiddetto, ma hanno pure, attane la roba con un altro, no? Gli ha fatto il basamento in cemento, entrava con la pompa, erano i bianchi che erano neri, i maiali, i puliti di quelli non ce n'erano. Beh, perché se fa un po' di pendenza la butti fuori pure la roba e rimangono puliti, no? Infatti c'era il basamento a chi si furugge già poco poco un attadito il buco puzzino su sia con un altro ci va di un buco se si bucci non lo sai come ti va, infatti rimuove nella lido al burrito rimuove. In modo che gli fa male, allora non si fugge, io lo so. Almeno non li ho mai messi. Anche quello li fa soffrire quando glielo mettono, gli vanno il buco. Sì, infatti. I complimenti quando mi hanno mandato. Quando c'hanno il ferro. Certo che vuoi buttare il cuore lì. Fa male, allora no. Non riescono a effurruggiarmi. Non hai idea del nostro preparazione. Anche il buco, con un naso, ma era giusto. Già dal muro, dal garage. Per prendere, non dall'uscita del... c'ha forza. Non è come ho, c'aveva il barburetto, però sotto era di terra. Hanno fatto il fosso e se ne sono scappati. Cioè, hanno fatto un fosso sotto il muro e sono scappati. Sì, una volta anche i miei, cazzo, se ne è fuggito tutti i buchi da un buco che viene fatto. Vedi una osi, l'ho deciso, lì a piedi, cazzo, finta anch'io. E ne li ho riportati indietro, meno male che ce ne siamo accorti, se no gliela via ci ha fatto domani. In macchina di regare. No, a piedi, campagna campagna, pinta usi lo disucci. Sì, allucinante. Via. Allora, mio padre una volta mi ha detto, ho visto una cosa che non credevo ai miei occhi. Te che cosa fa? Mi sono girato due o tre volte perché dicevo forse ho avuto una visione. Cazzo, era un tipo con un buco al guinzaglio, al ponte. Dice che si è girato tre o quattro volte a mandare anche lo bigrini. Tu fratello sei Andrea Lurica, era, chi su curi va? Chi su via un buco? Al guinzaglio. Mio padre dice, se è possibile una cosa del genere, mai visto una cosa del genere? È vero. Il fratello di Andrea Lurica, quello della Croce Verde, che aveva il maiale e lo portava al guinzaglio. Allucinante. Io mi ricordo che c'era uno che portava la volpe in Piazza d'Italia, quello sì, era un ragazzino, però me lo ricordo. Altro che noi, quello ce l'aveva in Italia il maiale. Già è vero, ma poi c'era vicino al monte, era un fratello di Andrea Lurica, quello lì. Se la regalava luce a passeggio. Ehi, ce l'aveva al guinzaglio, come il cane. E adesso allora prima si usava in America, questa usanza qua c'era in America, basta, quando li vedevi che sembrava la storia, adesso anche in Italia, su internet si vedono, ci sono i maialetti, questi maialetti che vivono in casa, capito? Vanno sul divano come il cane, chissà un viago, ma carità, no, non esiste. E infatti. Io mio padre lo adoro, il cane sì, perché è pulito, ma il maiale no. Anche se tu lo pulisci è fiaccoso. C'ha un odore particolare. Poi se fa la cacca guai. Tutta gattonzusa. Che schifo. Il cane fare, vabbè, io ogni volta che torna ripulisco le zampe, ripulisco il pisellino, ripulisco il seminino, tutto. Lo pulisco tutto il muso. E se si sdraia sul divano c'ha anche la copertina sua e non si sdraia dove ci sediamo noi, capito? Infatti, anche Concetta gli fa quel trattamento quando lo pulisce, capito, con la serviette e tutto. E io sto prendendo la ditta delle serviette, costano un bel poco, costano mi pare 75 centesimi a un euro, e le prendo lì, e sono buone. Infatti. Concetta gli fa dire un trattamento rivale. A Curto, quando lo pulisci con la chiave, con le salvette. Perché anche lui lo pulisce come sale, capito? Vabbè, dato che se vive in casa il cane deve essere pulito, non può stare con le zampe sotto e va sopra il divano, lo sporca, lo fa, no. Se è pulito è pulito. Infatti, io dico questo è lo più pulito di corso di verità e lunga. Vabbè, e se non ci tiene glielo fa, se non ci tiene glielo lo fa, capito? Non riesco, aspetta, voglio vedere se funziona. Non riesco a mettere così fisso. A mettere PTT fisso in questo microfono, il MV+4. Dove va? A destra o a sinistra? Bisogna spostarlo. A destra rimane, io non lo metto mai, ma rimane a destra. Non ci riesco. Mio, adesso è fisso. Poi vabbè, comunque questo qui già va. Già va, è nuovo questo qua. Me l'ha dato un amico. Nuovo, non c'è un grado. Pure questo è nuovo, è in scatola questo. Uno l'ho regalato a un amico, l'avevo regalato perché ne avevo due. E dice no, nello porto dalla scatola e l'ho usato. Io l'ho fatto solo con la piccola modifica, quel porto e basta, tutto lì. Non ne ho fatto altro. Ciò capsule buone, mi stanno le cose di cambiare, aspetta, se va bene così cambio quasi. No, la carina sì, se va bene. Io non gli ho tolto la mano con la lamiera, tali, tutti gli tolgono la lamiera, ma che ho tolto glielo qua. E gli ho lasciato collattolo alla capsula. No, io gliel'ho tolta, gli ho investito tutto di cottone. Ehi, ma adesso questo bene esce. Via. Forte la radio. Sì, sì. E adesso sono poi tempo che non uso gli altri, appare che mi pare che faccia andare anche gli altri. E bello è il microfono, funziona bene. Uno l'ho fatto io, uno ci avevo, come si chiama, anzi due ne ho fatto, quello che uso in macchina e quello che sto usando col coso, col 3009. Ho cambiato la capsula, tutto quanto. Era un DM1000 e l'ho fatto DM3000. Perché la parola a Santa Randia, sì. Adesso c'è una capsula di W+3 e una capsula di un microfono che si usa per cantare, che praticamente quelli che sono attaccati alle cuffie, siccome mi sono fasciati le cuffie, ne ho recuperato un microfono. Non ci ho pensato, cazzo, ce l'avevo anche io quello del microfono e non ho pensato a recuperare la capsula. Io l'ho recuperato. C'ho uno scheletro di microfono, cioè c'è tutto quanto, c'è PTT, capsula, tutto quanto, tranne che avere il coperchio, che però lo recupero subito perché c'è un altro microfono. E adesso voglio provarlo su quello, lo provo e vediamo un po' come va. Secondo come va li metto il coperchio dall'altro che non uso. Tanto sono tutti prestigi, invece della CTE sono uguali, Lafayette, CTE, tutti quelli sono tutti uguali. Sì, infatti. Oh, yeah. sei tu a principale. Ah, lo sai cos'è? Perché il Turner l'avevo fatto per quelli 23 canali. Ecco perché ce l'ho lì. Funziona sul 23 canali. Vabbè, in realtà ti li ha messo sul 23. Il carne funziona, ecco perché lì su l'ho messo lì su proprio per quello, perché c'ho un omologato e un l'omologato piccolino, mica c'avevo io, te lo dico, e poi c'ho i 23 canali, quello tutto quartato vecchio, quello che usavo in macchina, il caffa macchina non è più buccio. Non che me trattenni di macchina già. Non sono neanche andato a recuperarmi i soldi perché non avevo voglia di andare a prendermi la macchina al posteggio. Lui la vendi prendo, se no era andato e mi la più. Non la sto più usando, la verità. Ma se non hai bisogno, non hai un mese, non hai bisogno di tirarli. E domani anni, piano piano, le melende. Perché quando ve li metto il 27? Sì, me li hanno telefonato e ci sono, però non bisogna andare a ritirare. Ma com'è la storia, Natalia? Cioè tu con la carta pure ti hai solo 100 euro? E poi usi la carta per comprare la roba per qua. Capito? Quelli che avanzano li usi con la carta. Ah, ecco. Ciao, va bene, dai. Anda bene in meda. Devi andare alle poste via 25 capito? E lì va. Perché non c'è mai nessuno. Perché è un po' furibano, non c'è parcheggio, un casino. Sì, fermo 5 minuti, lì ti lunga, chi si va giù. Anche la pensione, vado lì e me la ritiro lì. Ma tu adesso che stai prendendo, vai in Italia oppure pensione di vecchia? No, la pensione di vecchiaia me la danno a 67, fra due anni, là. Ah, ecco. Sei ancora giovincente. Ancora giovane, cioè, se riesco a campare fino a vederla. Ma te immaginate che muovo prima e non me ne dati, ne si ritene lì, si rinà. Ti si mi ripiace lì, sì. No, è così, non si ritene lì, si ritene lì. E si riesce a campare fino a che sei dai. E è che non deve campare, ma... Sì, messo male sono già. Il mondo. Va bene, non ti trascurare Natale, ti fai fare quelle cose che devi fare, già lo sai. Fai male al medico, ti fai fare impegnativa e ti fai recuperare. No, oggi ti fanno recuperare sul lupo, non penso più di tirare, andi a manguarda. Devo fare una radiografia, cioè non una radiografia, un'ecografia devo fare. E l'analisi di Rusangu all'endocrinologa, a Chiesi sono dovuto andare a farmi la visita. Solo che ecografia il 30 ottobre era, aveva telefono giù d'ora domani, dirsi la ciappa a Platanona, a chi a Brivi deve andare a fare la visita di controllo. Se non riesce a fare l'ecografia almeno le analisi del sangue mi pure. E così faremo. Vabbè, ma certo, ma Natali, casino, con questa roba della sanità, prima venivano tutti la stasera, ma sembra uno che doveva andare a Chidà, ma ti immagini? Ma fammi di Chavisi, in Sassari non ci sono disponibilità. L'ho trovata per culo a Chiesi. L'ho trovata. Questa visita qui, perché uno si era cancellato. Il paziente. Ah, se no non veniva, manco in Chini. Lì sul luogo veniva. E meno male che non c'è tattuco. Vabbè, di fortuna, anche io non ho trovato di fortuna, te l'ho detto, ma c'è la Duissa. Guarda che se non vuole c'è il posto per domani. E va bene, io no, ma che? Non mi è sembrato vero la tattuco. Così è successo a me, infatti vedevo di Platano Lazzi, perché le ecografie generalmente le ho fatte tutte lì. Se si libera un posto a Platano, andando, mi lavoro, tu si va giù. Se non c'è più la camera per bike a Platano, non so. E boh, chissà per dove l'avranno spostata. Greta e poi Giacomo, vediamo. Già lo so che c'era la camera iperbarica. Eppure io l'ho fatta per mesi e mesi la camera iperbarica. Per il piede l'avevo fatta, poi ce l'ho battuta. E mi ha Venezia l'avevo spostata a Parigi, non so. E dove c'era. Io mi ha Venezia dentro i giardini che ci sono. Ho capito già, che cosa vuoi fare? A chi non vede a Rugangulo la camera iperbarica, chi si è chiuso col suo sardo, chi vede lo tecnico che era sul sito, si rammette. E io voglio se non ammetto, se me lo ammetto. Poi una volta Uyui sono andato con un nebulizzato, con l'ambulanza e non c'era il medico e ho dovuto prendere la decisione di portare una sassa in urgenza sotto mia responsabilità perché non c'era il medico e lui non si poteva allontanare, invece si era allontanato. Non c'era e questo qui era un sub nebulizzato, ho portato a Sassari. A Sassari mi hanno detto che il medico iperbarico non c'era. Allora ho telefonato i carabinieri, gli ho fatto dare il carabinieri, non sai come è uscito fuori il medico iperbarico, in 5 minuti. Sì, è un grido. Sono arrivati in urgenza i carabinieri, sono andati immediatamente, se no andiamo a prenderlo. Andiamo noi a prenderlo. Immediatamente che arrivi qua, perché se muore il paziente la responsabilità è la sua. Sì, è un grido. Giusto, corretto, l'evitare. Dimmi, Luca. Sì, una. E ho dovuto prendere una decisione un po' azzardata il giorno. Era la vita di una persona, cosa facevi? Aspettavi lì che tornasse il medico e gli sgribava, lo sai come l'evo, no? Che se cammina arriva su un organo vitale e ci rimane. Sì, è un grido. La spina, spilla. Che succede? Spillo le parole per. Succede. Io già lo so che succede, purtroppo. Taglio, stradivari, andiamo da Greta, convogliare, indirizzare, no, no. Canalizzare. È un macello, ragazzi. Giacomo, parte esterna degli amici. Ma Luca deve essere che. Che se ho dormito. Greta! Ma Luca ha fatto così, entra, dalla benedizione e poi se ne va. Sì, ha risolto. Però con dossier 1. Senza me salutare nulla, mica sa via. Boh. Sì. Vabbè, vabbè. Ci entrerà qualche un altro al posto di lui. Così si spera, non per più nessuno. Mi pare che mi vendo tutto, gatta. Ma c'è qui si vedono solo i contorni. E ormai mi porto tutto in dinaggia. Se c'è qualcuno, ma ne sei? Perché ti vuole prendere la mamma? Ma come ti vuoi prendere? Mille mia, ti immaginate? Ah, ma che l'avremmo provocato entrando? Cattolino. È così. La mamma che la giamma, e pensavo che fosse un altro tipo di droga la mamma, capito? No, la cocaina. Dimmi tu. Quando mi ha raccontato, mi sono cominciato da Luisa. Sta limbiato battussico. Perché c'ha la barba lunga, deve se l'hanno preso per tutti qua a vedo, il nero, no? Si è avvicinato la tesoreria di bamba. Dimmi tu. Ma lì ne abitano la tali in quel vicolo? No, in questo vicolo no, da un'altra parte sono. Mi ha tanto di vedere alcuni cabuzzenti, i clienti. Via le muraglie, chissà dove la uscita. Nella parte di via delle muraglie sono. Continuano le amiche e gli amici a tornare qui. Sono dall'altra parte. Felici Simone, chi come cosa? Ve Antonio, cazzo, da Santo Donato che fa via la Faine, io dico non prendendo più nessuno. A parla pure usare radio, cazzo. È solo grazie a che ti viene di niente. Non è a Buffonetti, mi non taglietemi, dimmi. Mia moglie non ci può andare perché teme. Io sono pubblico ad andare a pigliarmi. La Faini in Kiwi, ma cosa cazzo è tu pieno di niente? Non la fai andare a pigliare la Faini. Ma basta fare una cosa, basta che la porti a casa, che faccia servizio a domicilio, così a Roma si ricaverà il problema. Io dico non prende più nessuno, avrà chiuso sicuramente, io sono là tanto tempo che sott'acqua per 4 minuti. Perché cazzo, se timini, la gente andrà in chiuso, è tutto pieno di negri, ci hanno fatto anche un locale loro lì per divertirsi. No, chiuso no, perché un paio di mesi fa siamo andati a prenderla. Tanto? Sì. Sì, però rompe un po' le balle già. L'amore non conosce. Io già avevo un durante poi mi era andato lui e mi era più bigliato. Ma... Giacomo del mio cuore, sai che ti dico? No, no, chiuso non è chiuso. Ma io me la prendo quando devo prendere la farina, poi non arrivo più a mangiare, si chiede, sai, buffa subito e cose, quindi mangiarmela solo mi piace. Sì che siamo in greffa, cosa mangiarla, ma mangiarla da solo me la devo mangiare tutta io, perché una teglia piccola è già grave, già lo sai, già l'hai visto, no? Come? Ehi, l'ho presa parecchie volte lì, me la portano a casa a me. Telefono e me la portano a casa. E buona buona. Non è buona. E no che prima se ne è imbastardito, invece adesso la sta facendo buona. Perché quella che mi ha portato a casa era buona. Non posso dire di no. Però una busta la giovagnata e lasciava a desiderare. Sono andato io a pigliarmela là, una volta lì, noi la sai buona. Grazie che la ieri della metà di allora ce l'ha fatta bella, che di Arasani, vabbè, da Ganduila ne via usai. Ma abbiamo usato un fatto, una volta siamo andati con un amico a mangiarla, abbiamo pagato una barca di soldi, ce l'hanno messa appena appena, ma proprio una cosa, un assaggio, ci hanno messo due piattini con un po' di ferì, e abbiamo pagato un sacco di soldi, ci siamo guardati in faccia con questo amico, che cazzo buono, prima così fosse la gnone, ehi, la Sansu, lì hanno messo i tavolini, tutto, già lo so, l'amore, la fratellanza, la pace, Tizio era lì, era più avanti di Sansu, era, tornando indietro, no, a chi Sansu era a dritta e Tizio era a manca. E adesso c'è la spaghetteria al posto di Sisso. Però adesso Carlo Pira, quello lì la fa buona. È parente di Sisso, mi pare di poco. Ehi, Carlo è il fratello di Tizio. Carlo faceva la fainetta quando era in via Usai, Tizio. C'era Carlo Pira. Aveva pure i bordi. Che volevamo i travaglieri. Sì, me lo ricordo che c'era lui. Poi c'è un sacco di tusuglio. E fa anche le pizze, fa pizze al taglio, le pizze grandi, fa tutto. Le pizze al taglio mai prese da lì. No, negativo. Avrei sbagliato. E sono più buone sotto casa, però, la verità. Quello te lo devo dire. Sotto casa sono molto più buone le pizze al taglio. E anche per grazia a Deleda. Però per grazia a Deleda la salita è giubilata e mi hanno lasciato la mano in bocca. Perché erano insipide. Non avevano sapore di nulla. Attenzione! Come se dici che fa di cocco e si via il rosello, non si viene a nulla. Quelle sotto casa sono belle saporite, ci mettono sugo buono, mozzarella buona, tutto quanto, c'è un buon sapore e l'origano. Sono veramente buone, guarda, io ne prendo anche 6, perché me ne mangio 4 io e 2 euro. Saranno i conviti saranno via. Ciò che è rimasto. Vedi, i cocco non sanno di niente, cuccica. E che ora so? Già, ci aggiorniamo magari più tardi, che sono già le 7 e devo cucinare qualcosa, dai. Ci sentiamo alle prossime, che così ceno. E mi piglio i bacilli. Sì, va bene, la tavola, non ti preoccupare, buona carica quando la fai. Luca, ci sei? Lucrezia? Non può, ma ne lo vedi, non ti rispondo. Vabbè, là. Ovviamente, sono al limite già ascolto io. E che ascolti, non per nessuno, io me ne so cadere, se non c'è nessuno faccio altro, eh. Ciao ragazzi, per questo ci sentiamo, ciao. Ciao già, buon proseguo, dai, me ne vado a cucinare, alla faccia di quel coccomane di Luca. Gianni, do più un coccomane. Gianni, ci sei?